Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera a voi tutti, benvenuti a Smart City. Uno dei concetti che ricorrono più spesso quando si parla appunto di Smart City consiste nella possibilità di utilizzare in modo più informato e quindi più efficiente le risorse di cui già disponiamo. Per esempio, se grazie a un sistema di sensori di parcheggio sono in grado di sapere quali posti auto sono liberi e quali sono occupati, posso andare direttamente al posto auto libero evitando di circolare inutilmente, contribuendo così anche ad aggravare il traffico. Un problema del tutto analogo si ritrova nel settore della raccolta rifiuti, in particolare se parliamo dello svuotamento di cestini e cassonetti. E come nel caso dei parcheggi, la soluzione consiste nel dotarli di sensori che consentano di stabilire il livello di riempimento in modo da evitare di intervenire inutilmente oppure in ritardo. Va precisato che i progetti di cassonetto intelligente non mancano, ma il bidone smart, diciamo così, di cui ci occuperemo questa sera, ha una serie di aspetti che lo rendono particolarmente interessante. È stato progettato al centro di eccellenza del Politecnico di Milano dedicato alle tecnologie digitali, il CEFRIE, di cui abbiamo in linea il responsabile dei progetti IoT, ovvero Internet of Things, Roberto Farina. Buonasera Farina. Buonasera. Allora senta, ci parli un po' di questo vostro Smart Bin, che cos'è intanto di preciso e come funziona? Il progetto Smart Bin nasce in collaborazione con A2A, che è la società di raccolta rifiuti per il Comune di Milano, e l'obiettivo è quello di realizzare un oggetto intelligente che consenta la misura del grado di riempimento dei rifiuti all'interno del cestino per andare poi a ottimizzare il processo di raccolta. Certo. L'oggetto intelligente si basa su un principio elettrico di misura capacitiva in cui i rifiuti diventano la capacità da misurare. In base al grado di riempimento questa misura varia e quindi si è in grado di misurare in modo preciso quello che è il grado di riempimento del cestino. Ecco, perché vi siete orientati su questa tecnologia appunto capacitiva e non su altre, perché sono tante le opzioni disponibili? Esistono diverse tecnologie allo stato dell'arte per la misura del grado di riempimento, ma in qualche modo sono tutte volte ad errore. Ad esempio, una misura di peso: se io metto un oggetto troppo pesante rischio di falsare la misura. Se io uso tecnologie visive come una webcam o quant'altro, posso ancora una volta incorrere in situazioni dove io ipotizzo che il cestino sia pieno o vuoto e in realtà non lo è. Questo tipo di tecnologia consente di ovviare a questo tipo di problematiche e di fornire una misura molto più reale e realistica di quello che è lo stato attuale del grado di riempimento dei cestini. Ecco, ed è anche fisicamente un oggetto, mi sembra, abbastanza semplice e solido. Adesso non abbiamo tempo di spiegare esattamente come funziona una capacità, qualunque perito elettrico lo sa, ma insomma ci sono delle lastre di metallo che vengono caricate elettricamente, in mezzo c'è qualcosa che offre, chiamiamolo così, resistenza al passaggio della corrente. Ecco, più o meno un capacitore è una cosa del genere, no? Sì, questo principio sostanzialmente, in base alla quantità di rifiuti, la misura di questa resistenza di cui lei parlava varia e quindi sono in grado di determinare il livello di riempimento. Il principio si basa su delle lastre di metallo che consentono questo tipo di misura. Il fatto di utilizzare questo tipo di materiale, mi lasci dire tecnologia, consente di dar vita ad una soluzione che ha sicuramente un impatto molto basso sui costi dell'oggetto. Ricordiamo che stiamo parlando di un cestino per raccolta rifiuti. Certo. Neanche di un cassonetto, di un cestino addirittura. Di un oggetto che costa migliaia di euro. Esatto. D'altro canto, essendo un oggetto disposto in aree pubbliche, deve anche essere robusto ad agenti atmosferici o condizioni ambientali in genere e soprattutto ad atti di vandalismo. Certo. Se l'oggetto è troppo evidente può dare luogo a situazioni in cui le persone, vedendo un qualcosa di particolare, lo vogliono vandalizzare. Certo. Insomma, qui invece non si vede neanche, perché sono delle lastre dentro il bidone sostanzialmente. Morsetti appare come un bidone normalissimo. Senta, ci ricordi invece quali sono i vantaggi nello sposare un modello simile, cioè questo dei cassonetti intelligenti, anche direi indipendentemente poi dalla tecnologia che si adotta? Sicuramente possiamo sottolineare il vantaggio di ottimizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti cittadino in due accezioni: una riduzione dei costi e un aumento del decoro cittadino. Certo. L'altro vantaggio che possiamo sicuramente portare è quello di certificazione del passaggio degli operatori, quindi sono certo che quel cestino è stato svuotato e che in quel giorno e quell'ora l'operatore è passato a prelevare i rifiuti. Veniamo un po' allo stadio di sviluppo di questa vostra idea. Intanto c'è già un esperimento in corso proprio a Milano, no? Allo stato attuale ci sono più di 10 cestini installati nel territorio milanese, quindi sperimentazione presso la 2A. Si sta promuovendo un bando di gara per la realizzazione del prodotto, quindi transitare da una fase prototipale a prodotto per la realizzazione di 20.000 cestini con un costo target inferiore al 100 euro. Ecco, questo per dire che questa idea, per una volta, siamo certi che non rimarrà nel cassetto. Va bene, grazie, grazie Farina. Grazie a voi, arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì. Buona serata.